ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti. Benvenuti a Dedicato. Oggi siamo con un ospite speciale perché, oltre a essere un amico, veramente amico, è un collaboratore ed è un ragazzo giovanissimo, quindi questo nel mondo dello spettacolo e della musica è importante, perché tante cose vengono fatte sempre dalle stesse persone, soprattutto nell'ambiente della musica classica, contemporanea, accademica, e invece i giovani hanno bisogno di spazio e hanno bisogno di visibilità. E Alessandro Meacci è qui con noi oggi, lavora con me su tanti progetti, quindi posso dire di conoscerlo molto bene. E ciao Alessandro, grazie di essere qui. Ciao Erika, grazie a voi, insomma, di questo spazio. L'abbiamo invitato perché appunto vogliamo parlare un po' di lui e un po' dei percorsi che lui ha fatto e sta facendo e farà, perché essendo giovane ha tanta energia e tanta voglia di portare avanti dei discorsi. Lui è pianista, compositore, diplomato in conservatorio in entrambe le materie, quindi anche veramente molto bravo. Non lo dico perché è un amico, ma lo dico perché musicalmente, insomma, posso dire la mia e so di cosa sto parlando. Ma è anche organizzatore di eventi e di progetti importanti, perché si parla di opera lirica, si parla di progetti d'avanguardia dove si va a intervenire sull'intelligenza artificiale che sale su un palcoscenico, dove si vanno a raccontare, insomma, cose un po' anche particolari che non si vedono tutti i giorni e che è giusto che si vadano a intraprendere nel 2024. Quindi Alessandro, ci racconti un po' adesso la tua storia. Io so che hai iniziato a suonare pianoforte, che eri piccolissimo, 7 anni, poi già a 18 anni avevi composto il tuo primo album e lo portavi in giro, quindi lo andavi eseguendo in diversi luoghi. Raccontaci un po' com'è nata questa passione per la musica e poi dopo arriviamo invece piano piano a quello che oggi stiamo facendo. Sì, allora è tutto nato in maniera ludica, perché è così che nascono le passioni. Avevo per fortuna in famiglia mio padre, che mi ha sempre stimolato, anche se lui non è un musicista, e quindi gli ascolti erano di vario tipo, dalla musica classica di Bach piuttosto che la musica progressive, e fino ad arrivare alla musica super contemporanea, moderna, senza discrimine di genere, quindi tutta la musica. E questo è stato, diciamo, la prima grande fortuna, oltre al fatto di avere genitori che non mi hanno mai ostacolato in una Italia anche spesso con pregiudizi nei confronti della musica. È andato tutto abbastanza bene nei primi anni, poi lo step difficile è stato dalla passione alla professione. Quindi sicuramente una forte vocazione e merito anche dei maestri che ho avuto, che mi hanno stimolato a fare del meglio, perché ovviamente il livello oggi è altissimo, sia dal punto di vista proprio degli interpreti, dei musicisti, sia dal punto di vista dei compositori. E quindi per entrare in una macchina complessa come quella del mondo dello spettacolo, ma non solo, bisogna avere quelle famose skills che si acquisiscono sicuramente sul campo, e i docenti in questo sono fondamentali. Quindi ricordo ancora come se fosse ieri, avevo 11 anni e già suonavo, e scrissi questo brano, Quiete dopo la tempesta, e lì che mi accorsi che, insomma, il pianoforte era un amico indispensabile. La passione della musica era qualcosa di più, ma che intorno alla musica si poteva costruire moltissimo, dalla musica e per la musica, quindi la letteratura, la storia, tutto ciò che oggi viene visto con un certo alone di antichità e che invece secondo me è futuro. E quindi in questo primo album, Tetractys, che è la Tetractys pitagorica, e qui riprendo anche le mie radici calabresi, e vado a inserire gli elementi di matematica, gli elementi di filosofia, della musica intesa come armonia. E poi da lì in poi è stato tutto molto bello, perché i concerti all'inizio sembravano un traguardo complesso da raggiungere, invece poi sono diventati ordinari e soprattutto necessari, vitali proprio per stare Certo. al mondo musicalmente, ecco. Certo, la tua quotidianità è suonare, quindi al di là del fatto che comunque tutti noi musicisti passiamo dalla fase dell'insegnamento, perché anche io insegno, anche tu insegni, e questo è anche molto bello perché si passano i saperi poi ai più giovani, che saranno a loro volta quelli che porteranno avanti i nostri discorsi attuali, no? Ma questa cosa del comporre così piccolo, così giovane, perché eri bambino quando hai iniziato a comporre, e realizzare quanto il pianoforte possa essere amico e quanto anche questo fosse il tuo mondo, è stata un po' una fortuna sicuramente, perché non tutti trovano la loro strada così giovani, ma anche, come dici tu, un accompagnamento della famiglia e una base culturale importante, che quello che vogliamo cercare di comunicare, no, in un certo modo, è che i giovani, se hanno questo aiuto e questa base culturale, arrivano piano piano a capire qual è il loro futuro, Certo. perché è importante, è molto importante anche questo. Io delle volte, quando parlo con te, che hai 20 anni in meno di me, mi sembra di parlare con un coetaneo, con una sapienza Grazie. culturale veramente a tratti imbarazzante, che dico: ma come fa già alla sua età a sapere tutte queste cose? È impossibile. E quindi invece la cultura serve poi a questo, no? Perché in radio ci ascoltano in tanti ed è bello far passare questo messaggio. La cultura non è una cosa aleatoria, ma è una cosa che si tocca con mano e che va a creare poi le Certo. persone che saremo quando saremo grandi, no? Quindi è importantissima. Certo, è uno strumento Certo. essenziale anche economico, ma questo insomma non lo dico io, lo dice la nostra storia. Quindi la musica, che è la più astratta delle arti, in realtà è la più concreta, perché noi apriamo i social oggi e vediamo come siamo tempestati dal suono prima che dall'immagine. Un reel per funzionare ha bisogno della musica. Certo. Un qualsiasi film ha bisogno della musica. Tutto ciò che noi veicoliamo nel mondo digitale passa per il 90% dall'immagine e dal suono. E quindi, se escludi uno dei due mondi, beh, qualcosa non funziona. Quindi il mestiere musicista oggi è al pari del filosofo nell'antica Grecia, cioè proprio vitale proprio per tutti, per la società, per la politica, per veicolare dei messaggi giusti o sbagliati che siano, ma si passa anche dall'aspetto uditivo, dell'ascolto proprio. Assolutamente, certo. Allora, Ale, guarda, io farei una cosa, manderei un brano che tu ci hai consigliato e che mi raccontavi proviene dalla tua infanzia, perché era un ascolto che facevi in famiglia ed è un ascolto importante, perché parliamo di Genesis, quindi insomma, al di là del mio essere batterista e quindi di avere un Phil Collins nel cuore che batte sempre con me, il brano è veramente molto molto bello, e questa intro, mi dicevi, ti ha ispirato, no? Un inizio sul pianoforte, quindi io manderei questo brano, lo vuoi lanciare tu? Sì, allora, fa parte dell'album Selling England by the Pound, si chiama Firth of Firth, che è questo gioco, questo scioglilingua che si rifà anche a un fiume che loro utilizzano, perché è tutto un discorso lessicale che Gabriel cura, ed è davvero un bellissimo brano, rock progressive, ma con questo inizio quasi bacchiano classico che poi diventa qualcosa di più. Veramente è stato un colpo al cuore, ecco. Ok, bene, quindi mandiamo i Genesis e ci risentiamo tra poco. Thank you. Bentornati in studio, siamo sempre qui con Alessandro Meacci, grazie per questo consiglio musicale perché è veramente un brano molto interessante questo di Genesis. E allora, io farei un discorso adesso un pochino più attuale, nel senso che noi ci siamo conosciuti per una collaborazione proprio professionale da vari punti di vista, perché appunto tu sei compositore, pianista e organizzatore, quindi noi insieme abbiamo creato un percorso che si chiama Officina Musica Attuale, che è nato un po' di anni fa su Bologna e che collaborava già col Conservatorio Cittadino e con diverse istituzioni e realtà del territorio. E nei mesi e anni del Covid ha preso forma insieme a te e si è un po' trasformato, perché c'era l'esigenza di lavorare a distanza e sul digitale, e quindi Officina Musica Attuale non era più quello che una volta si portava sul palcoscenico e basta, ma è diventato un percorso molto più ampio che ha creato masterclass, festival, eventi, e che collabora con Agenda, che è la casa editrice che comunque ti ha accolto a braccia aperte, perché appunto in quanto compositore non potevamo fare diversamente, no? Allora chi gestisce la parte editoriale, che lo possiamo dire perché tanto non è un segreto, che è Giampaolo Salbego, ha capito immediatamente il valore dei tuoi lavori e ti ha preso sotto braccio accompagnandoti, e poi al contrario negli anni accompagnando tu noi in un percorso che è diventato uno scambio culturale molto importante. E quindi adesso io ti chiedo anche un tuo pensiero sulla musica di oggi e su queste produzioni musicali, no? Su come si può anche consigliare ai giovani che si stanno per diplomare in conservatorio o anche no, ma che si vogliono affiancare al mondo della musica, quali step e quali percorsi si possono fare? Beh, allora, la fortuna è stata quella di incontrare proprio Giampaolo Salbego e te, laddove in un'Italia non c'è oggi lo scouting delle case editrici, che spesso non selezionano dal basso, quindi o sei già conosciuto oppure non hai la fortuna di entrare semplicemente in contatto, quindi magari ci sono i concorsi, magari ci sono delle piattaforme di lancio, però laddove uno ha un'idea e basta, come succedeva a me nel 2019-2020, quindi avevo tanta musica che aveva bisogno di essere editata, ma non per fare volume come oggi spesso accade per un discorso accademico, quindi hai il titolo, va bene, no? Ma per dare credito a quella musica, quindi se alla base la cultura di quel lavoro. E quindi ho trovato fortuitamente Agenda, che faceva scouting, che è una cosa bellissima nel mondo dell'editoria e rara in Italia. Sono partito in un modo, convinto che avrei dovuto fare il compositore solo in un modo, invece poi ho scoperto che si può fare il compositore in tantissimi modi, senza discrimine di genere, quindi dalla musica accademica alla musica veramente sperimentale elettronica, piuttosto che le produzioni pop, perché no? Quindi quello che Agenda mi ha insegnato è come stare al mondo musicalmente, e l'urgenza di Officina Musica Attuale era proprio questo, di far capire che i giovani non sono da soli, che esiste un mondo che spesso non è pubblicizzato ma che si occupa proprio della creatività, che oggi è tanto professata ma poi quando si deve applicare il pensiero divergente nessuno ti prende e ti porta con sé, e invece il musicista, ritorno al discorso di prima, ha forse davvero questa funzione sociale di far capire l'importanza di affrontare un problema anche economico Però con la creatività quel problema diventa più semplice, quindi fare di un prodotto astratto un prodotto concreto e quindi una piattaforma di lancio per tanti giovani, non un ufficio di collocamento, perché quello Certo. sarebbe surreale e viene meno anche il senso di quello che stiamo facendo, ma far sì che queste idee possano confluire in un progetto teatrale, in eventi aperti soprattutto ai giovani, perché è la sfida del nostro tempo. Il successo personale dell'artista oggi è quasi inutile se intorno non ha un humus di persone che lo comprendono. Certo. Quindi La cosa bella di Officina Musica Attuale e del tuo percorso correlato a OMA, che è l'acronimo poi, è che non si parla di un genere musicale, quindi noi collaboriamo con la SINC, la Società Italiana di Musica Contemporanea, come lavoriamo nell'ambiente pop rock, quindi chi si vuole avvicinare a un percorso di questo tipo lo può fare a 360 gradi e tu per primo come compositore non lavori solo sulla musica accademica o classica o contemporanea, ma vai a spaziare in tutti i generi, quindi dall'opera lirica fino alla musica elettronica, e certo. questo è importante. Però quello che rimane fondamentale è la qualità. Quindi si può andare al concerto di musica classica moderna, contemporanea, quindi parliamo di musica più che contemporanea, presente, come dice Renzo Cresti, critico musicale italiano, quindi l'attualità della musica d'arte, e andare a sentire il concerto techno, la discoteca, ma tutto con qualità. E questa è la sfida che va portata e risolta in Italia, cioè di fare musica di qualità. Bene, Ale, io manderei il tuo prossimo brano, che è proprio non più una scelta tua come i Genesis, ma è proprio un tuo brano, Sì. che si chiama Cosmo Bolo, perché Alessandro Meacci è appena uscito da qualche mese con il suo nuovo disco. C'è un amore particolare verso la città di Bologna. Ha scritto questo brano che si chiama Cosmo Bolo. Alessandro per questo tuo brano Cosmobolo, bellissimo, tratto dal tuo ultimo disco Essential, quindi veramente grazie. Allora, io adesso procederei a parlare di questa tua opera, è una vera e propria opera lirica in due atti, il titolo è Cleopatra. Andiamo a parlarne un attimo insieme perché poi sarà il momento dei saluti, siamo arrivati quasi alla fine. Ale, raccontaci un attimo questa opera lirica nel 2024 in Italia, da dove nasce, perché, quale emotività anche ti ha creato, no? Nel scriverla. Una cosa importante, tu hai scritto le musiche di quest'opera lirica, abbiamo un libretto che è di Marco Maria Tosolini, e però le musiche sono le tue, che sei un giovane con tantissima esperienza già. Raccontaci un attimo da dove nasce questo progetto. Allora, in primis, non per nostalgia, ma chiaramente da italiano, se mi approccio al teatro mi viene da pensare di scrivere per forza un'opera lirica, perché finora in questi anni abbiamo osservato dagli anni 20 in poi due generi proliferare, e cioè il teatro musicale e il musical. L'uno celebrava il discorso sperimentale e l'altro invece era molto popolare di inclusione. Però noi abbiamo un grande biglietto da visita da portare all'estero. Allora, perché non fare il melodramma del futuro? Cioè il dramma in musica, la tragedia in musica. E quale più tragedia incredibile come storia proprio di questa sovrana che, ahimè, e qui viene la funzione dell'opera lirica, non è compresa ancora oggi. Se uscissimo per strada e chiedessimo a qualcuno di parlarci di Cleopatra, beh, la prima cosa direbbe una vedova nera, una donna dai facili costumi, un personaggio anche scomodo a una certa politica latina-romana. E invece Cleopatra è stata tanto altro, e la damnatio memoriae, questa congiura che cade su di lei, è a causa di quella cancellazione della memoria proprio scritta, e i documenti scritti che se ne sono andati nell'incendio della biblioteca di Alessandria ha causato quindi oggi questa idea della promiscuità. E invece mi viene da citare il bellissimo lavoro della dottoressa Chantal Milani, che ha ricostruito il volto di Cleopatra. Allora, osservandola, vedendola proprio come la vedremo con gli occhi nostri di moderni, di occidentali, beh, diremmo quasi che non è così bella. Allora, come è possibile che Giulio Cesare e Marco Antonio sono rimasti affascinati da un personaggio del genere? Beh, per la sua cultura, perché conosceva le lingue, perché scriveva di filosofia, perché era la prima coreggente sovrana a parlare l'egiziano con il suo popolo, e quindi in una forma, diciamo, all'epoca di faraoni, di sovranità, era un esercizio di democrazia anche quello. E poi ovviamente l'elemento musicale che mi ha stimolato. Io giocavo già con l'idea di Cleopatra da piccolo, andavo a scuola e la studiavo però alla maniera latina, cioè come ci veniva raccontata. E invece grazie al team di Agenda e alla fascinazione nei confronti del melodramma che Giampaolo Salbego porta avanti per via della sua storia con proprio personale, il nonno era assistente di Puccini, cantante e operista, e allora qualcosa si è attivato in me e ho avuto la fortuna di parlarne con Marco Maria Tosolini, compositore e librettista, altra figura fondamentale nello sviluppo del melodramma, che ha costruito proprio una tessitura dal punto di vista della lingua e del linguaggio utilizzato incredibile, perché si fondono il greco antico, l'egiziano, il latino e l'italiano, e tutto avviene in maniera semplice e accessibile, quindi riportare l'opera lirica a tutti come era un tempo. E allora vado al significato di Cleopatra in musica, proprio partendo da uno strumento che le era caro, e cioè il sistro. Questo sistro, che oggi noi potremmo definire un sonaglio, un idiofono, quindi uno strumento a percussioni, se agitato poteva evocare la dea Iside, quindi c'era il culto della dea Iside all'epoca, e nella dinastia tolemaica si diceva che appunto Cleopatra si reincarnasse, cioè che Iside si reincarnasse in Cleopatra. Oltre al fatto che il papà di Cleopatra, Tolomeo XII, era detto laulete, cioè suonatore di aulos, lei stessa suonava la lira, il valore delle arpe all'interno di quel mondo, ecco, quindi per forza di cose diventa un soggetto musicale con cui anche fare un, perché no, un lavoro di recupero del personaggio, della figura, prima ancora che della donna, dell'individuo. Quindi Cleopatra era unica, e si deve poi arrivare ai tempi moderni, forse alla regina Vittoria, Elisabetta II, per avere una sovrana di questa elevatura. Certo, e come dicevo prima, infatti, gentili ascoltatori, quando parlo con Alessandro io mi chiedo: ma come fa così giovane a sapere tutte queste cose? perché veramente si vede un interesse, una ricerca, uno studio dietro alle sue composizioni che va al di là della musica, ma che supporta poi le sue musiche nel percorso e in tutto quello che fa nei suoi progetti e nella sua quotidianità. Quindi grazie intanto. Grazie a voi. Purtroppo dobbiamo salutarci, però direi di tenerci riaggiornati entro la fine del 2024, perché ci racconterai come sono andati avanti i tuoi progetti, come è andata avanti Cleopatra, e insomma sicuramente ci riascolteremo e ci risentiremo. E intanto grazie, quindi grazie a te. Ciao Alessandro, buon inizio di anno. Anche a te, Erika, grazie. Noi invece ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao. Ai miei pensieri, a come ero io.